Brasil. A nostalgia do Brasil. Brasil está ali. L'Italia qui. Tutti convocati. Di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Senna entre línea, le bien toca para Xavi, Xavi para Torres, qué buena pelota la han puesto, Torres, la pelea, Torres, ¡gol! ¡Gol! Torres, c'è dentro Iniesta, Torres l'ha visto, lo cerca, poi arriva Fabregas, dentro ancora Iniesta, controlla Iniesta, attacca Torres, esce Buffon, la porta è vuota, c'è la quarta marcatura spagnola. Impietosi, implacabili i giocatori spagnoli, proprio con il neoentrato Juan Mata che si gusta il sapore dolce della rete proprio nel momento in cui la partita sta per concludersi. Arriva ora il fischio finale dell'arbitro, la Spagna, campione del mondo, è fuori dal mondiale dopo appena due partite. Copertina meravigliosa, grazie a Franco Biatrini, da Roberto Scaltriti, Claudio Schettoni in redazione. Grazie anche a Stefano da Udine che scrive un sms 349-238-6666. Azz! Dalla finale di Champions in poi stai azzeccando tutti i risultati, ma non ho capito se pensi che vinciamo noi o la Germania, che è la tua favorita. La Germania, e lo dico solo per scaramanzia. C'è sempre qualcosa di maestoso nella fine di un'epoca. Come scrive mio amico Paolo Condò, peraltro oggi sulla Gazzetta dello Sport, ma l'aveva già scritto dopo l'umiliazione del Barcellona, che è lo specchio di questa Spagna, ad opera del Bayern di Monaco l'anno scorso. Chi è stato un grande dittatore non muore nel proprio letto. Ed è così, è stato così. 7 gol subiti, umiliazione totale, un solo gol fatto su rigore. Mai nessuno da campione aveva perso le prime due partite. Uno spogliatoio a pezzi, la sensazione chiara della fine di un'epoca. Questa è stata la fotografia della Spagna ieri sera. Si intuiva che sarebbe andata così. È quasi scontato che una dinastia tramonti, come è successo con la Spagna, pagando un debito di riconoscenza, come Del Bosque ha fatto, alla sua dinastia di campioni, alla sua dinastia di fuoriclasse. Spagna che, insomma, ci sono molte situazioni e molte suggestioni che si intrecciano. L'addio di Juan Carlos ieri, quasi emblematico, il re di Spagna che abdica nel giorno in cui la Roca abdica dal tetto del mondo. Questa è la fine anche di una, cioè il tramonto, se volete anche dolce, di una nazionale che ha rappresentato un'epoca anche dal punto di vista sociale. Questa è la nazionale del 2008, nata nel 2008, è stato sottolineato anche oggi ad esempio magistralmente da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, un paese, nel 2008 la Spagna era un paese con il Pira alle Stelle, con Zapatero che era una rockstar, era davvero il paese leader in Europa, e tutto quello che accadeva anche in campo sportivo diventava oro, e questa Spagna di oro se ne è portata a casa un sacco. Due europei, un mondiale, e ieri sera è finita in questa maniera. 8-0-0-24-0-0-24. Ovviamente dall'altra parte della barricata c'è un Cile che avanza i suoi bellissimi diritti, come ha fatto Vidal. Ragazzi, siamo una squadra giovane, cosa vogliamo? Il titolo mondiale, ed è un mondiale bellissimo questo. vediamo il Cile che cresce, l'Olanda che ieri gioca una partita, cioè è stata una partita meravigliosa nella sua follia, se vogliamo, quella contro l'Australia. Cresce la Croazia che nella notte ha umiliato il Camerun, e questo può essere un altro tema. Sembra proprio il mondiale del flop, non solo della Spagna ma dell'intero calcio africano. Cominciamo a vedere qualcosa nella miriade di partite che abbiamo già visto e che ci aspettano, e sono tutti temi molto interessanti, aspettando ovviamente domani sera l'Italia. Tutti convocati. Ragazzi, di Zeman allenatore del Cagliari possiamo anche, lo sappiamo, se volete commentate, i microfoni sono sempre aperti per voi, come ogni giorno 800240024, su Zeman allenatore del Cagliari oggi o sul Cesena che va in Serie A oggi, come scrive qualche ascoltatore via SMS, parlate di questo, di quell'altro. Ragazzi, di fronte al mondiale e di fronte a quello che abbiamo visto ieri sera, con tutto il rispetto per Zeman, per il Cagliari e per il Cesena, magari un'altra volta. C'è anche chi scrive questo messaggio: Gigi da Venezia, se fossi spagnolo andrei lo stesso ad accogliere applaudendo i giocatori al ritorno per le gioie che hanno dato Xavi su tutti, ma non solo Xavi, caro Gigi, tutti quanti, e io credo che la Spagna lo farà. Saluto e ringrazio Eleonora Giovio, prestigiosa collega del País. Ciao Eleonora, grazie. Ciao, comunque ciao. Una piccola precisione, perché io al País non lavoro più, eh? Ah, dove lavori? Lavoro per terra.es. Ah, fantastico, diamo questo aggiornamento in diretta. Desculpa. No, fa niente, come state? Molto bene, molto bene. Senti, ma la Spagna, inteso come il popolo spagnolo, andrà all'aeroporto ad applaudire comunque questa squadra, secondo te? Ma è quello che si sta chiedendo da televisioni, radio e giornali. Qui succede una cosa un po' strana, nel senso che evitano di analizzare le sconfitte perché dicono, insomma, questa nazionale ci ha dato tanto, evitiamo adesso le critiche, poi ci penseremo. E invece, secondo me, insomma, qualche critica andrebbe fatta. Quale, secondo te? Ma intanto non hanno saputo dare una risposta tecnica e tattica ai rivali, che ormai tutti conoscono il tiki-taka spagnolo, a parte Diego Costa del Bosch, che non ha rivoluzionato assolutamente niente. Dopo la prima partita con l'Olanda, che c'erano già segnali comunque di preoccupazione, ha rimandato in campo gli stessi uomini tranne due, più che altro lo stesso schema. Io non so se ieri avete visto l'immagine in Italia, c'è un'immagine secondo me che rappresenta un po' la sconfitta spagnola. Tra il primo e il secondo tempo, nel tunnel degli spogliatoi, tutti a testa bassa, un vamos di Casillas detto a tono molto basso, insomma. Sì. Sembrava quasi evidente. Sì, sembrava quasi evidente anche il fatto che Del Bosque avesse dovuto pagare in qualche modo il tributo, ma è già successo anche all'Italia, tu lo sai benissimo, sì. Nell'86 certe dinastie finiscono per esaurimento, per consunzione, devi pagare comunque il tributo a quello che questi giocatori ti hanno dato, o altrimenti cercare una rivoluzione epocale. Come la Spagna, anche l'Italia nell'86 aveva alle spalle comunque un Under 21 molto forte, che poi ci ha portato agli europei dell'88 e ai mondiali del 90. La Spagna è campione d'Europa, e ci sono molti giocatori già ormai consacrati. La rivoluzione poteva essere quella di trapiantare massicciamente quella Under 21 in questa nazionale, però probabilmente non era possibile per una questione di sentimento. Sì, Del Bosque non ce l'ha fatta, ha voluto riportarsi un po' il gruppo storico che ha iniziato questa epoca di trionfi nel 2008. Hanno criticato un po' Xavi Alonso ieri, che dopo la partita ha detto la quota di fame e allegria era terminata, e tutti dicevano vabbè, allora aver lasciato il posto a un altro. L'infortunio di Thiago Alcántara ha fatto molto male alla Spagna, perché avrebbe giocato titolare ed era magari uno dei nuovi che avrebbe portato un po' più di freschezza, come Coque ieri nell'ultima mezz'ora. Ma c'era la sensazione in Spagna che comunque questa spedizione fosse quella dell'addio? Sì, Allora, una cosa è quello che dicano pubblicamente i commentatori delle partite delle TV: vinciamo, evitiamo il Brasile, arriviamo in finale. In realtà, un po' prima che partissero per il Brasile, se tu facevi qualche conversazione con i giornalisti, prima di tutto sapevano benissimo che era impossibile ripetere il titolo mondiale, che ci è riuscito solo il Brasile. E poi comunque, voglio dire, dopo aver visto l'anno del Barcellona, dopo aver visto come hanno finito la stagione i giocatori del Real Madrid e dell'Atletico, che si sono spremuti tanto, c'erano abbastanza segnali di questa debacle. Ora, non si aspettavano comunque di prendere 7 gol in 2 partite e di segnarne uno su rigore. Senti Eleonora, ma abbiamo tutti la sensazione che questa Spagna si specchi nel Barcellona, no? L'epilogo di una storia da una parte, questa Spagna giocava, l'anima di questa Spagna, quel centrocampo era quello del Barcellona, quel sistema di gioco era quello del Barcellona, era quasi normale, quasi fisiologico che tramontando uno sarebbe tramontata anche la Spagna. Sì, più che altro voglio dire, la prova l'abbiamo avuta perché quest'anno il Barcellona ha voluto fare lo stesso calcio, ma la preparazione fisica non è stata la stessa, voglio dire, con il Tata Martino non hanno lavorato, se le gambe non girano è impossibile fare la pressione che faceva il Barcellona, certo, e che faceva la Spagna fino a 2 anni fa, e quindi era abbastanza inevitabile. Era abbastanza inevitabile che finisse così, ma... hai parlato, anche tra le righe si capisce chiaramente, dalle parole di Xavi Alonso a quelle teste basse, eccetera, è una Spagna anche con uno spogliatoio abbastanza distrutto, con uno spogliatoio ai minimi termini, sappiamo, Piqué, Sergio Ramos, 2 su tutti hanno pessimi rapporti, ma era una Spagna che non viveva nemmeno più bene insieme, è una Spagna che anche nello spogliatoio, oltre che sul campo, aveva forse dato tutto, no? In realtà nell'ultimo anno le cose erano un po' cambiate, nel senso che i problemi erano con Arbeloa, che comunque non è stato convocato, Ramos, Piqué hanno sempre cercato un po' di smorzare, comunque voglio dire Casillas, Xavi e Iniesta, che erano un po' gli uomini chiave dello spogliatoio, e la squadra l'hanno tenuta. No, non credo che sia uno spogliatoio diviso, eh. Quindi uno spogliatoio unito era semplicemente la magia che era finita sul campo. Sì, la magia è soprattutto la preparazione fisica, atletica. Non so se avete visto, facevano proprio fatica a fare pressing, a recuperare la palla si recupera se stai bene fisicamente, se no almeno recuperarla come la recuperava il Barcellona. Certamente, ma è un male comune con il Barcellona anche questo, perché anche il Barcellona aveva aveva evidentemente questo problema nella stagione che abbiamo appena visto. Sì, Xavi ha fatto una stagione pessima, Iniesta ha cominciato a giocare 2 mesi fa, Fabregas non ha avuto la sua stagione, infatti se ne va, Piqué era infortunato da 2 mesi. Sì, i segnali c'erano già tutti e anche qualche giocatore che è rimasto a casa. Ad esempio c'è qualche polemica in Spagna su Llorente, c'è qualche polemica in Spagna sugli assenti, perché abbiamo detto come... anche i protagonisti di quell'Under 21 che è stata meravigliosa, come è sempre stata la Spagna negli ultimi anni, insomma, c'è qualche polemica in Spagna, ha lasciato qualche dubbio Del Bosque sulle convocazioni? Più che Llorente, che a Del Bosque non è mai piaciuto, si è parlato un po' più di Negredo. Poi vabbè, i nostalgici di Arbeloa e di Carvajal hanno fatto un po' di polemica. In realtà c'è stata più polemica su un'altra questione, sul fatto che comunque la gente in forma che c'era, come Coque, Mata, Cazorla, gente con un po' più di voglia o comunque di fame, sia stata in panchina. Per quello che dicevi tu prima, no? Questo tributo alla generazione storica della Spagna. Beh, ma guarda, quasi sempre così, no? Anche noi italiani lo sappiamo benissimo. Un'ultima cosa ti chiedo, il mondiale come lo vedi adesso? A me, secondo me è un mondiale bellissimo, è un mondiale con tanti gol, forse anche con un livello di gioco che non ci aspettavamo, tutti a parlare del caldo, del clima impossibile, di tante cose, però stiamo vedendo fin qui, dai primi respiri, un mondiale bellissimo. Un mondiale meraviglioso con delle difese un po' ballerine, finalmente. Sono curiosa di vedere la Germania, perché anche agli europei era la favorita, poi ha incontrato l'Italia e si è bloccata. Il Brasile non mi sta piacendo e comunque credo sia difficile batterlo, e io spero nell'Italia. Speri nell'Italia? Come buona italiana spero nell'Italia. Grande. Grazie Eleonora. Un abbraccio. Grazie davvero. Buon proseguimento. Grazie. Bravissima Eleonora Giovio. 800240024. Io voglio sentire adesso, per queste due ore, come la pensate voi sull'eliminazione spagnola, ma questo tributo, c'è già un parallelo interessante, che è quello, questa Spagna è come l'Inter del triplete, cioè è stata, è chiaro che la storia era finita lì e poi c'è stato un lungo tributo di riconoscenza, ma credo sia quasi inevitabile. Tra l'altro questa Spagna, come ho detto, è stata il simbolo di una generazione, di un'epoca. Del Bosque ha pagato questo tributo, non so se pagherà anche con la panchina questa debacle mondiale. Complimenti a Diego Costa che ci aveva visto giusto, Allora non gioco col Brasile, preferisco andare a giocare con la Spagna perché voglio vincere il mondiale. Viva Spagna! Bravo Diego, aveva visto tutto giusto. Dall'altra parte però non, è ovvio che diventa che finisce quasi nell'ombra, ingiustamente, quella partita pazzesca che ha fatto il Cile. A proposito, siamo sicuri che Mazzarri avesse tutte le ragioni del mondo nel troncare in maniera decisa, bollandolo come Turboman, Edu Vargas? Gli era fatto un gol pazzesco Edu Vargas. Sarà contento De Laurentiis, che ha un sacco di giocatori a questi mondiali, e si sente già in lontananza il rumore, il suono, il tintinnio del registratore di cassa. Tutti convocati. Robben fa velocità centralmente. Robben al limite, entra in area. Robben ha attaccato la spina. Area Robben. Così è imprendibile. 1-0. McGowan dentro per Cahill. Al volo Cahill! Il pareggio immediato di Tim Cahill con una meraviglia. Ma Bozanic cerca lo spazio per il cross. Trova la mano di Yamat. Calcio di rigore. Va Jedinak. Calcia sempre lì e calcia molto bene. 2-1 per l'Australia. Segna il capitano Jedinak. Giocatori australiani. Depay, zona tiro. Assist. Van Persie. 2-2. Pareggia l'Olanda. Robin Van Persie. Occhio a Depay che tira. Depay! Erroraccio di Ryan. Segna Memphis Depay. 3-2. Partita capovolta. Modric per Serna e la cross in mezzo. Anticipo su Mandžukić, poi Olić! Camerun 0, Croazia 1 all'11esimo, la firma di Ivica Olić. Perisic inseguito da Anonkeo, Perisic ingresso in aria, Perisic con il destro! Ivan Perisic al 48esimo, il raddoppio della Croazia, dopo l'assist anche il gol per il numero 4. Il cross sul secondo palo verso Mandžukić, c'è anche la firma di Mario Mandžukić al 61esimo, la Croazia fa 3-0. Occhio qui a Kovacic, il bel pallone per Eduardo fa tutto con il sinistro, la piazza, la respinta corta, Mandžukić, è tutto regolare, la doppietta di Mario Mandžukić, poker della Croazia, 4-0. E aggiungo che è stato abbastanza triste vedere Camerun ridotto in quelle condizioni, una squadra divisa, una squadra quasi patetica in cui i giocatori si mettevano le mani addosso, una squadra che non al di là della grana dei premi, tutte queste cose che continuamente accompagnano qualche nazionale africana verso i mondiali. Ebbene, tutto questo si è visto in campo ed è stata davvero una figura orrenda quella del Camerun. Allora vi leggo questo racconto anonimo che mi è arrivato via SMS. Trattandosi di racconto anonimo, io conosco l'autore, ma voi no. Allora, negli spogliatoi del trofeo Team agosto 2011, il signor Arturo Pardo Vidal, alla sua prima partita in bianconero, dichiarò: vogliamo vincere lo scudetto. Dunque, in campana, ragazzi. Luca da Cesena, buongiorno. Ciao Carlo, ciao. Grazie per la convocazione. Ascolta, a parte l'ubriacatura e la felicità per una promozione assurda, sì, che nessuno avrebbe neanche lontanamente immaginato, ho deciso di chiamarti per questo e per raccontarti questa cosa. Dimmela. Ieri sera ero a Latina, quando siamo andati via nel cuore della notte, tantissima gente di Latina, fuori dai bar lì intorno, ci hanno applaudito. Allora, in un calcio pieno di schifezze, di cattiveria, di ipocrisia, vi dicendo, ieri sera per loro credo sia il calcio, lo sport, anche grandi delusioni, credo sia stato un boccone amarissimo da mandar giù. Il mio applauso a quelle persone che hanno dimostrato una grandissima sportività. Non ci sono solo cose negative, ci sono cose anche positive, vale la pena di raccontarle. Adesso vado a dormire perché casco dal sonno. Com'è andata la festa? Un delirio di felicità. Il calcio dà grandi gioie e grandi delusioni, a volte di qua, a volte di là. Ma guarda Luca, dà grandi emozioni, e sotto questa parola credo ci stia tutto, no? Perché alla fine vogliamo emozionarci anche quando perdiamo, anche quando ci incazziamo, siamo tristi, eccetera. Il calcio dà grandi emozioni e è per questo che fa impazzire tutti noi. Complimenti Luca, bravo, complimenti a te, al Cesena, ai tifosi del Latina, a questa bellissima serata che ci hai raccontato. Ma che registratore di cassa, dobloni d'oro dei Borboni nelle casse del Regno delle Due Sicilie. Sì, perché è così, insomma, cioè De Laurentiis alla finestra che sta contando i soldi potenziali, no? Si legge di questa mega offerta del Barcellona per Higuain. Secondo me il Napoli dovrebbe, se c'è un giocatore dovrebbe tenere a tutti i costi, è Gonzalo Higuain, ma al di là del valore del giocatore, per quello che può rappresentare, per il simbolo che può essere per la gente di Napoli, però insomma di fronte a certe offerte è giusto pensarci. Simone da Bologna, buongiorno. Buongiorno, la tifosa del Bologna, giusto, Denise, dopo il tifoso del Cesena. Ma chiaro, chi sale, chi scende, l'anno prossimo vediamo. Complimenti a Cesena, ma parliamo di mondiali, chi meglio. Sì. Io volevo fare una considerazione veloce su chi poteva essere il pretendente al titolo, nel senso che la storia insegna che chi arriva in fondo e chi dimostra più solidità ne prende di meno in sostanza. Quindi la Spagna, diciamo, dopo la prima partita dava tanti segnali evidenti di quello che adesso è capitato, mentre non vedo l'Olanda appunto per la sua troppa, tra virgolette, allegria difensiva arrivare in fondo. Ahimè, la Germania è quella che dopo il primo giro ha impressionato di più tutti quanti, ha impressionato, è la squadra che più ha impressionato tutti quanti. Mi manca la rivale dopo un giro che ha dimostrato questa compattezza. Aspetta Simone, cioè, già al secondo giro cominciamo a vedere delle cose. Ad esempio nella notte ho avuto la conferma del fatto che la Croazia, che aveva perso in quella maniera con il Brasile, è una signora squadra. È chiaro, non da titolo, ma stiamo parlando dell'outsider. Sono molto curioso di rivedere il Belgio. Sono curioso di rivedere la Bosnia, sono curioso di rivedere l'Argentina, che mi ha convinto pochissimo alla prima uscita, e poi Savas Andir sto bruciando dall'attesa per domani sera ore 18 quando vedremo l'Italia, ma vedremo anche Costa Rica che ha scuracciato l'Uruguay. Attenzione, perché stasera c'è un altro dentro fuori, c'è Inghilterra-Uruguay, un dentro fuori che ci riguarda molto molto molto da vicino. Es un día triste para todos, para ellos, que desde, para toda esa gente que es cariñosa y que reconoce los éxitos de esta selección, y para nosotros que estamos aquí, que lo estamos sufriendo en primera persona. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. Bueno, hemos jugado dos partidos, hemos sido capaces de ser superiores a Holanda y a Chile. Como consecuencia de eso estamos apartados de la Copa del Mundo. Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. Y hemos tenido una suma de mensajes siempre positivos, de afecto, de simpatía hacia esta selección. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español. Ecco due re che ieri hanno deposto la corona praticamente nello stesso istante. Storia che se avesse avuto un regista non sarebbe stata così precisa. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Sofferenza, errori, buongiorno. Gratitudine, ne parlano re Juan Carlos, ormai ex, e Vicente del Bosque, CT, non so se ex, della Spagna. Sei partito... Grandissima, Grandissimo montaggio, grandissimo montaggio. Spettacolare, devo dire, veramente. Faccio i complimenti. E a Biata Rida, ragazzi, a Roberto Scaltriti, eccetera, certo. Dimmi. Però, perché qui la cosa più triste di tutto questo è che siamo solo alla seconda partita, quindi sì, adesso c'è da aspettare e affrontare un inutile Spagna-Australia. Sì, sofferenza totale. Beh, ma sì, è un... D'altra parte, Phil, cosa ti aspettavi? Cioè, una squadra come questa poteva uscire dal mondiale per un gol di differenza reti o per un gol subito all'ultimo istante o per un accidente del caso? No. Una squadra come questa non poteva uscire da un mondiale in modo normale. Infatti nessuna squadra campione del mondo aveva mai perso le prime due partite di un mondiale. Quindi è quasi normale. Non è uscito dopo due partite, sì. Esatto, sì, questo sì. Sicuramente non poteva finire in maniera normale perché è stata un'epopea incredibile, probabilmente irripetibile, mai vista prima, questo va sottolineato. Però diciamo anche il più pessimista non poteva prevedere una situazione del genere. Questo dico. Poi dopo uno dice i segnali c'erano, tutto quello che vuoi, però adesso non si può fare i fenomeni, nessuno poteva pensare che una squadra che aveva preso un gol all'Europeo e due ai mondiali prendesse sette gol in due partite contro un'Olanda giovane e un Cile che adesso è diventato fortissimo, ma è la quinta squadra del Sud America. Giocano con in difesa uno del Nottingham Forest, uno dell'Osasuna, uno del Cardiff. Cioè, va bene Vidal, che era comunque acciaccato, e Alexis Sanchez, che conosciamo, va bene Isla, anche Edu Vargas, Napoli. Insomma, anche Vargas è stato mandato, e in Brasile, e al Valencia, nessuno lo voleva, eccetera, eccetera. Ieri non lo voleva, dire. Per cui, questa è la difesa, ho detto Real Sociedad, Nottingham Forest, Osasuna, Cardiff, insomma. Per cui nessuno poteva prevedere un tracollo di queste dimensioni. Dopodiché, chiaro, i segnali di stanchezza, soprattutto mentale e fisica, c'erano. Però diciamo l'evoluzione del tracollo è stata assolutamente incredibile. Perché poi continuo a tornare indietro a quel possibile 2-0 di Silva. La vita cambia in fretta. Chissà come sarebbe andata a finire. È chiaro che questa Spagna è in difficoltà, quindi probabilmente poi magari avrebbe perso lo stesso. Magari poteva essere l'elettroshock che teneva in vita la Spagna, poteva essere quello che dava alla Spagna ulteriore energia. Però leggendola così, anche quel gol sbagliato da Silva era quasi fisiologico in questo quadro, cioè era una pennellata che sta perfettamente in questo quadro. Fitti, chiedo un attimo di pazienza per il traffico. Prima ho lanciato il traffico, c'era la borsa, chiedo scusa a tutti, poi volevo fare aggiornamento sul traffico, ma non ho Pardo. A proposito, informazione di servizio, Pardo oggi è in volo con Dario Ricci, soprattutto con la nazionale italiana, quindi non so se riusciamo a prenderli tra un aeroporto e l'altro, questo poi lo vediamo, e mi dispiace, non avrete oggi le informazioni da Nogarole Rocca da parte di Pardo. Vediamo invece con gli amici del traffico. No, mi illusioni sono bastante atrevia perché sono il campione del mondo. Tutti convocati. Abbiamo delle ascoltatrici diaboliche dal punto di vista cabalistico. Sentite questa di Bea da Milano: se arriviamo in semifinale con l'Argentina vinciamo il mondiale. 1982 Polonia Papa Polacco, 2006 Germania Papa Tedesco, 3 puntini di sospensione, Bea lo vedremo. Filippo, allora prima ho parlato con Eleonora Giovio che ben conosci. Ho letto anche in quello che hai scritto tu diverse volte sulla Gazzetta dello Sport che questa Spagna è arrivata alla fine di un ciclo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista dei rapporti all'interno del gruppo. Prima Eleonora mi ha detto no, ma in fondo questa Spagna nello spogliatoio era unita. A me non ha dato questa impressione. Allora, ci sono due fuochi, diciamo. Uno è Xabi Alonso. Xabi Alonso è mal sopportato da quasi tutti. E questo, e infatti anche ieri sera lui ha parlato in un certo modo gli altri poi gli sono, diciamo, hanno tutti preso le distanze. Sì. E il secondo è un sì, Ramos e Piqué non hanno una grande comunicazione, però attenzione, questa è anche Ramos e Piqué, la coppia che ha preso un solo gol in tutto l'Europeo. Chiaramente. Non bisogna esagerare in questo senso. Io li ho visti abbastanza bene ancora. È chiaro che insomma sono non va benissimo. Cioè, questa è una squadra che prima era separata, poi è riuscita. La unisce Aragonés, ma lì era ancora, non c'era ancora troppo il divario, diciamo la divisione Barcellona-Real Madrid. Poi arriva Mourinho, cerca di spaccarla, Del Bosque la ricompatta, un miracolo, vincono l'Europa del 2012 e forse adesso insomma, sono un po' stanchi anche dal punto di vista delle relazioni personali, però non siamo a livello del Camerun, mettiamola così. Ecco, proprio il Camerun, un giorno di questi voglio fare con te un discorso sul calcio africano, perché questo può essere il modello del tramonto. Camerun ieri veramente penoso, guarda, è stata una figuraccia. No, io l'avevo scritto, però non legge nessuno questa purtroppo. No, te ne do atto, io l'avevo letto, infatti ero preparato. Io il Camerun me l'aspettavo assolutamente così e questo è stato però vabbè sì, il calcio africano, come ho detto, a me mi piange il cuore perché veramente ci sarebbe ci si potrebbe lavorare, ma insomma poi no, un giorno ne parliamo con Camerun, tanto tempo ne abbiamo. Senti, esatto, volevo farti dimmi tu. Posso farti sentire una cosa? Hai citato Mourinho, queste sue parole sulla Spagna: previsibile, lento, triste. Y por esta razón yo pienso que cuando no hay mucho que decir, dos partidos, dos derrotas merecidas y una eliminación yo pienso merecida. Prevedibile, lento, triste. È il trionfo di Mourinho, certamente. È il trionfo di Mourinho, si prende la sua rivincita, il piatto è bello freddo, sì, lo mangia. Poi è bellissimo quando il giorno prima dice: per me Casillas deve giocare. Quello per me è certo, ma perché sarà chiaro, perché lui lo voleva così, hai capito? Casillas deve giocare, esatto. Per forza non ne prende una. È chiaro, quindi, Esatto, è chiaro, quindi questo è il mondiale di Mourinho, in questo senso, il tonfo della Spagna è un trionfo per lui, peccato che il suo Portogallo faccia altrettanto schifo, però insomma questo è un altro discorso, però è chiaro, quella frase su Casillas, che alcuni stolti ti hanno interpretato, però vedi, insomma, il disgelo, no? Che il disgelo, lui voleva vederlo morire, sì, c'è riuscito. No, ecco, io ti dico, più che i rapporti interpersonali, cioè, se bisogna, ecco, per esempio partiamo da Casillas è un uomo distrutto, insomma, cioè, si vede che tutta questa polemica con Mu lo ha lasciato nudo, per me ha sbagliato tutto in questi due anni, non ha mai voluto parlare, non ha mai voluto dire le sue ragioni, i tifosi, c'è tantissima gente che non lo sopporta, ma tanta, e poi soprattutto sono madridisti, e questo è grave, dovrebbe certo. Farsi delle domande, certo. Darsi delle risposte, e quindi ha un già questo è molto indicativo, la prima partita Casillas è determinante in maniera negativa, altro che San Iker, altro che la finale della Champions, quasi, cioè il paradosso è che Iker sta per togliere la mitica decima al Real Madrid, cioè mancano 90 secondi al patatrac, se non lo salva Sergio Ramos Iker toglie la decima, ed è un peccato, è un peccato perché un gran giocatore come è stato Iker Casillas abbia questo epilogo, è davvero un peccato, al di là di Mourinho e tutte queste cose, no, qui, è veramente un peccato, perché è stato un grandissimo un'altra peccato. Cosa sola, posso passare rapidamente su un altro uomo, per me è una scelta chiave, sì. Diego Costa. Io capisco Del Bosque, vuol fare la transizione. Lui ha capito, Del Bosque è stato intelligente, Del Bosque ha visto che il Barcellona affondava e lui ha cercato di cambiare, no? dal tiki-tac al gioco diretto. E giustamente Diego Costa non, però ci sono due cose. Uno, una grande squadra non compra giocatori, una grande nazionale. Loro l'hanno preso Pernia, tipo nel Mondiale 2002, un terzino argentino scarsissimo, ha giocato due partite. Hanno preso Marco Senna, che è stato utilissimo per l'Europa, ma allora la Spagna non era una grande squadra. Adesso la Spagna che vince tutto non può comprare il centravanti, perché di questo si tratta, no? Quindi si è comportato da club e soprattutto ha sfidato gli dei brasiliani. Attenzione, questa, non è, cioè, questa è una cosa importante. A livello di sensazioni, di vibrazioni, tu sei venuto in Brasile con il centravanti brasiliano odiatissimo, che già questi non li sopportavano gli spagnoli perché avevano paura di loro. In più col centravanti brasiliano sei andato a toccare delle piccole, come si può dire, delle cabale, delle alchimie, che non si toccano. Delle onde misteriose che devi lasciar stare. Perfetta riflessione, Monsieur Filippo Maria Ricci. Grazie. Ci sentiamo alla prossima. A voi. Ciao, un abbraccio. Ciao. Grazie, Phil. Adesso, Bet Corner, GR e di nuovo qui. 800240024, vi aspetto. Quote e pronostici. Dopo la clamorosa eliminazione di ieri dei campioni del mondo in carica della Spagna, il mondiale anche oggi offre tre match molto interessanti. Alle 18 si comincia con la sfida di Brasilia tra le due sorprese del girone C, Colombia e Costa d'Avorio, che si giocano il passaggio e il primato. Sono queste le quote sniper. Questa partita, l'1, la vittoria della Colombia, è quotata a 2,10, l'X è a 3,30, il 2 con il successo della Costa d'Avorio è quotato 3,50. Alle 21 poi occhi italiani e non solo, puntati su San Paolo, dove all'Arena Corinthians c'è Uruguay-Inghilterra. L'1, la vittoria dell'Uruguay, è quotata 3,50, l'X è a 3,50, il 2 invece con il successo degli inglesi è quotato 2,05. A mezzanotte poi chiude il quadro la gara di Natal tra il Giappone di Zaccheroni e la Grecia. L'1, il successo del Giappone, è quotato 2,15, l'X è a 3,30, il 2 invece è quotato 3,40. Passando al basket, questa sera c'è gara 3 tra Siena e Milano. L'1, la vittoria di Siena, è quotata 3,60, l'X è a 2,10, il 2 invece con il successo di Milano è quotato 2,30. Questa era l'ultima delle quote snai di oggi, a risentirci domani. Tutti convocati. Allora, Giuseppe Cruciani è sempre presente perché teniamo i conti di Twittao, tutti i giorni ne parlo sulla tua classifica. Sto andando male, però ieri però ho fatto 10 punti, si rimonta. Che numero! Si rimonta e mai Mular. Punti mai alla Mular. Zona, cioè alla zona Europa League, insomma. Ma io gioco per divertirmi, i pronostici non è che sono un'indicazione di qualcosa. Ascolta. Ci si diverte e basta, su. Pardo è saltato perché è secondo. Pardo. Sì, lo so, me lo dice tutti i giorni. Twittao. E la Spagna? E la Spagna eliminata, qualcuno l'aveva previsto, io francamente no, speravo in un ottavo di finale Brasile-Spagna, come sai, perché la seconda di quel girone va a finire con il Brasile, per cui Cile-Olanda sarà una delle partite più interessanti dell'ultimo turno, perché ovviamente il Cile, che può solo vincere per evitare il secondo posto, ce la metterà tutta. I precedenti sono sfavorevoli sia al Cile che al Brasile, però, perché le due volte in cui il Brasile ha incontrato il Cile negli ottavi di finale, è successo a Francia 98 e nel 2010, ai passati mondiali, il Brasile poi non ha vinto il mondiale, per cui anche il Brasile ha questa piccola cosa scaramantica. C'è un altro segno contrario, tu ricordi, sai che nel mondiale del Maracanazo il Brasile pareggiò la seconda partita in casa? Sì, col Cile? Non ricordo se col Cile o con un'altra, però seconda partita fu un pareggio, quindi un altro segno per gli aruspici. Sì, non credo molto a queste cose, sono cose di contorno, simpatiche, divertenti, pronostici. Certo, il terzo ottavo di finale di seguito in 4-5 mondiali tra Brasile e Cile, gli altri due sono stati netti. Ripeto, per il Cile li ha persi nettamente tutti e due, sia nel 98 che nel 2010. Comunque guarda, tu, secondo me contro questo Brasile molto più pericoloso il Cile, anche se so che non ti ha ancora impressionato, che anche ieri sera ieri sera ha fatto una gran partita, non bisogna sopravvalutare nessuno, secondo me mi ha impressionato moltissimo il pubblico con l'inno, ma già ne avete parlato, sicuramente è stato impressionante, però tutto questo non porta a nulla, c'è una grande carica, ma chi non ha carica in un mondiale, diciamo, no? quando vai bene tutto torna, diciamo, cioè la carica c'è, la convinzione c'è, non è che sia solo del Cile. Io sono convinto che in un modo o nell'altro, come si dice, di riffa o di raffa, il Brasile arriva in semifinale. O arriva o viene portato in semifinale, nonostante le difficoltà. Dunque, secondo me Olanda-Cile è la partita di questi dei prossimi giorni, perché sia l'Olanda che il Cile vorranno assolutamente evitare il Brasile. Sì, Olanda che ieri insomma è stata un po' ridimensionata dall'Australia, perché ha vinto in qualche maniera con l'Australia, era anche sotto. L'Australia è stato dato un rigore, fosse stato in Milan-Juventus sarebbe venuto giù il mondo per una settimana. Al di là di questo, guarda, no? Che sull'Olanda, come al solito i giornali dopo il 5-1 hanno esaltato la vittoria dell'Olanda e va bene, però nell'ordine ci sono stati due questioni. Primo, fino al 44esimo del primo tempo, se Silva mette dentro quella palla invece di sprecarla davanti al portiere, siamo 2-0 e poi vediamo. E poi però sono sensazioni, cioè non puoi sapere, può essere l'elettroshock estremo per la Spagna. Però secondo la difesa della Spagna nel secondo tempo della partita con l'Olanda è stata peggio di ieri, per cui anche qui attenzione con l'Olanda, che in difesa mostra qualche perplessità. E io non sono così scontento, sempre se l'Italia dovesse andare avanti come prima del girone, non sono così contento di trovarmi l'Olanda da quella parte del tabellone, piuttosto, addirittura ti dico di più, piuttosto che la Spagna. Comunque l'Olanda ha squadra di grande talento, magari ha un gioco abbastanza episodico, però ha grandi individualità, grandi in forma. Ma i mondiali si vincono anche così, no? Assolutamente, ripeto, i mondiali si vincono soprattutto con la difesa, dico io, per cui da questo punto di vista l'Olanda ha qualche pecca. C'è una cosa che mi fa impazzire ed è il comportamento del Camerun. Io ho visto in diretta tutta la partita di sera del Camerun, veramente fino alle 2 siamo malati, Croazia Camerun 4-0. Ha visto Croazia Camerun 4-0 la mezzanotte alle 2 ed è una malattia. incurabile. No, ma ero lì a vedere sprofondare il Camerun, perché hanno avuto un atteggiamento veramente vergognoso e nel complesso al profumo del flop del calcio africano questo mondiale. Sì. Tu dici a Costa d'Avorio, ma anche a Costa d'Avorio non mi sembra. Beh, però la Costa d'Avorio è l'unica che può qualificarsi in un girone molto debole. Sì, ha individualità. In un girone molto debole ha qualche individuale in più rispetto al Camerun, dove Eto'o è praticamente scomparso da tempo, peraltro. Sì. Lo stesso Eto'o che ha affittato una camera d'albergo, un appartamento a parte rispetto alla squadra, del modico prezzo di circa 2-3 mila dollari a notte. Oggettivamente la Costa d'Avorio è l'unica squadra che può qualificarsi tra le africane, ma non è detto, perché anche il Ghana in teoria potrebbe farcela, ce la potrebbe fare la Nigeria, ce la potrebbe fare l'Algeria, diciamo in questo momento sembra quella meglio piazzata perché ha vinto la prima partita. Però certo è un calcio africano che sembra tornato insomma agli anni 80, non dico allo Zaire del 74, però insomma agli anni in cui beccarne 4 era la regola. È un calcio africano che dall'82, ti ricordi, le prime scintille del Camerun contro l'Unione, eccetera eccetera, di lì in poi è cresciuto fino a farci dire ma sono pronti per vincere il mondiale, ma dove fino al quarto di finale dell'Algeria, no? E del Ghana nel 2010, però insomma sì, c'è stato un regresso da questo punto di vista. Credo sia una questione tecnica, di mentalità tecnica soprattutto. Stefano Milano, buongiorno. Sì, ciao. Ciao, dimmi. Dimmi. Dovevi intervenire, che programma è questo? Questo? Il programma che vuoi tu. Questo è il programma che vuoi tu, dimmi. Vabbè. È stupendo. Non che programma è questo? Con che programma volevi parlare? Beh, no, ma richiamatelo questo qua. Ma chi è? Sì, è Stefano da Milano. Una cosa pazzesca, dai. Enrico da Milano. Sì, grazie per la convocazione. Sai che programma è questo, no? Sì. Ah, ok, sì. Perfetto. Perché? No, perché quello di prima era incerto. Qui per qua. Dica. No, io ho telefonato perché non sono convinto sul fatto di Chiellini come centrale della difesa. Siccome io sono juventino, ho visto quasi tutte le partite della Juve, e quelle volte che ho visto Chiellini centrale in mezzo alla difesa della Juventus, sono sempre a traballare. Invece sulla fascia comunque il suo perché lo dice ancora, ma secondo me piuttosto il contrario, cioè Chiellini è un difensore centrale, era un difensore centrale. Vabbè, se non è più un difensore centrale siamo messi abbastanza male. Però va bene tutto, ma discutere Chiellini è una cosa senza senso. Adesso, al di là della questione di centrale o sulla fascia, eccetera. Discutere Giorgio Chiellini, ma non è una discussione, cioè si può fare tutto, su, per carità, come dice un vecchio adagio, siamo tutti commissari tecnici, in particolare durante i mondiali, va benissimo. Discutere Giorgio Chiellini, ma allora, cioè, di cosa stiamo parlando? Di che parliamo? Cioè, Chiellini è indiscutibile, dopodiché può attraversare momenti di forma, ma penso può che invecchiare. Vogliamo lasciarla a casa per la storia del codice etico, cioè penso che vogliamo lasciarla a casa per la storia del codice etico. Ma nessuno ci ha mai pensato seriamente, dai. Ma vorrei anche vedere la storia di Buffon, secondo te gestita bene, gestita male, come la vedi? Ma non, finché non escono fuori cose particolari, finché non escono fuori cose dai singoli giocatori, mi sembra sia stata gestita abbastanza bene. È ovvio che la questione si poteva porre dopo due partite, cioè se per due partite consecutive gioca Sirigu, allora si poteva porre la questione, beh, questo gioca, magari gioca anche bene, due partite che fai, lo sostituisci? Tant'è che secondo me la volontà di Buffon è di scendere subito in campo, cioè se Sirigu avesse giocato col Costa Rica, allora a quel punto la terza partita comincia a diventare difficile sostituire un giocatore che magari rende bene. Credo che se gioca domani, dopo una partita, ci sta. Quindi ci sta. Prandelli ha fatto bene a tenere ferme le sue gerarchie. Ma sì, secondo me sì, assolutamente. Allora, c'è Michele Dalai, con il quale... Ciao Michele! Ciao! Ciao, eccomi! Condividiamo un sottile piacere, devo qual è? Dire la qual verità. È? Vabbè, dai! Piacere, no, interista, tu sei milanista. No, vabbè, ma lascia stare. Condividiamo un sottile piacere di assistere al funerale sportivo di una filosofia che non ci ha mai fatto impazzire. Sì, no, che ieri però non abbiamo nemmeno visto praticata, perché la Spagna perché non ce la facevano più. Perché quello che mi ha molto stupito, parliamo ovviamente del tiki-taka e del gioco fondato sul possesso palla frenetico, come se non ci fosse un domani tra un passaggio e l'altro, e invece hanno giocato in un altro modo, mi sono sembrati esausti, il che mi ha mosso un po' a compassione. No, cosa il tuo lato sentimentale, eh? Esatto, mi ha fatto un po' soffrire per loro, no, li ho visti spenti, molto scarichi, con un problema evidentissimo di preparazione fisica, una preparazione atletica, pardon, che è assolutamente carente. Il fatto che tanti di loro poi a fine corsa, Xavi, Villa, vadano a giocare in campionati così minori mi impressiona ancora di più. Mi sembra che siano proprio stati spremuti fino all'ultima stilla di energia e si siano presentati a questi mondiali. Questo è evidente, intanto Xavi va a prendere una pensione di 8 milioni l'anno netti, eh? Sì, ma che come pensione non è male, eh? Cosa? Non è Xavi male. Va in Qatar, all'Arabi, a prendere 8 netti l'anno. Sì, ma andrà subito, da settembre? Sì. Adesso, domani, prende l'aereo e va. Cioè, finito qui, va a giocare lì, insieme a Raul, non la stessa squadra. Non è un posto freschissimo per svernare, soprattutto per uno che sembra non avere più fiato, però insomma, per 8 milioni netti l'anno si può fare, credo. Sì, si può andare anche all'inferno a giocare. In perpetuam memoriam tiki-taka, ha twittato ieri sera Michele Dalai, Giuseppe. In perpetuam memoriam tiki-taka. Sì, sì, adesso non so se si riferisce al programma di Pardo, spero di no. Anche lì forse c'è bisogno di qualche ripensamento, cioè, a parte che abbiamo visto un tiki-taka italiano, abbiamo visto un tiki-taka italiano, qualche accenno di tiki-taka italiano durante la partita con l'Inghilterra. Secondo me è più tuca-tuca, come dice Mondoni. Niente a che fare con, con il vecchio tiki-taka, però insomma dai ragazzi, è normale che sia così, ma non è mai esistita una nazionale che ha vinto due europei di fila e un mondiale in mezzo, per cui insomma ci può stare. No, è chiaro. Ci può stare, mi sembra che la Spagna tra l'altro abbia non solo il diritto di perdere in questo modo, di perdere un mondiale in questo modo, lasciamo perdere i titoli dei giornali spagnoli di oggi, che chiaramente sono i giornali che devono fare notizie, comunque la catastrofe, eccetera eccetera, però ci sta, è nel gioco del calcio, è nelle cose, è negli astri, è nei numeri, nulla di particolare. Certo, uscire con 5-1 è quasi peggio dell'Italia del 2010. L'Italia del 2010 in fondo perse con la Slovacchia 3-2, una partita che incredibilmente poteva anche pareggiare all'ultimo secondo, qualificandosi. Invece esce con 7 gol, probabilmente vincerà con l'Australia, forse no, non lo so, comunque insomma, prende con 7 gol, esce con 7 gol al passivo, di cui solo uno segna sul rigore. Io ho sempre in testa la Spagna del primo tempo con l'Olanda, non so perché, io credo che il mondiale poi sia anche una somma di casualità, per cui se il primo tempo con l'Olanda finisce 2-0 e quel gol di Villa entra, può darsi che avremmo parlato di altre cose. Sì, secondo me poteva, te l'ho detto prima, poteva essere l'elettroshock di una squadra che comunque è chiaramente arrivata all'ultimo atto, no Michele? Tutto vero, no, giustissimo quello che dice Giuseppe. Secondo me la cosa un po' più inquietante è il fatto che loro abbiano mostrato anche ieri, cambiando alcuni uomini, di non avere una vera alternativa, cioè di non avere in mente una disposizione tattica o semplicemente una soluzione anche improvvisata ad alcune a un motore che aveva chiaramente grippato. Cioè hanno cambiato degli uomini, c'era Javi Martinez che fa un altro gioco rispetto a Savi, eppure è come se fossero rimasti proprio stravolti dall'orrore delle loro stesse mancanze, cioè fermi, immobili. Contro l'Olanda hanno giocato un buon primo tempo, l'Olanda ieri ha dimostrato di soffrire come tutti, l'Australia per la Spagna è una squadra pericolosissima perché fa di quel vigore e di quella spensieratezza al limite della follia la sua cifra. Ieri hanno giocato una partita che potevano tranquillamente vincere, ma per pura pazzia hanno deciso di non vincerla, eppure corrono in modo dissennato e divertente, tutto il contrario della Spagna. Senti, ma è giusto pagare questo tributo alla riconoscenza, come ci sta anche il parallelo con l'Inter di Mourinho che ben conosci, questo tributo alla riconoscenza di una squadra evitando rivoluzionarla, eccetera. Del Bosque poteva farlo, ha un Under 21 meravigliosa e questa sarà la vera chiave di continuità della Spagna, un Under 21 meraviglioso da cui poteva pescare diversi giocatori, ha scelto di andare con i suoi fino in fondo. Lippi nel 2006 lo poteva fare Del Bosque questa volta. Io credo che ci sia un tributo di riconoscenza. Oddio, è anche possibile tentare di mischiare un po' le carte, era possibile inserire giocatori diversi. Lui ha avuto l'enorme sfiga, diciamocelo, dell'infortunio di Thiago Alcantara che gli ha rovinato i piani, perché se esiste un sostituto naturale di Xavi, possibilmente ancora più dinamico, è quel ragazzo che non si è presentato ai mondiali perché è infortunato. Questo gli ha scombinato tutti i piani. E lui ha provato a mettere Jordi Alba, a mettere qualche giovane, anche se è gente che ha già una grande esperienza internazionale. È chiaro che un tributo di riconoscenza a Xavi, Iniesta, lo stesso Torres. Torres è un ex giocatore da diversi anni, però sì, perché... è sembrato un ex giocatore anche Diego Costa, cioè, è vero, verissimo, che aveva detto prima del mondiale: scelgo la Spagna perché non il Brasile, che io voglio vincere il mondiale. Ha fatto una pessima figura Diego Costa, ma forse ha ragione anche Filippo Maria Ricci, perché sono da leggere alle stelle anche in questa maniera, no? Andare a sfidare il Brasile con questo centravanti che in Brasile tutti odiano perché ha ripudiato la maglia verde oro per quella, per quella rossa, forse non è stata una grandissima idea. Sì, anche perché poi nel momento, guarda, io non sono un estimatore di Sergio Ramos, ma in realtà sì, perché è un giocatore molto quella spocchia in campo che mi infastidisce, quel tentativo di colpo di tacco contro di noi alla finale di Euro che mi innervosì moltissimo, eppure è uno che non molla fino all'ultimo secondo. Ieri lui ha tenuto duro fino all'ultimo, ha picchiato, ha corso. Diego Costa sembrava un passante, uno che non vuole nemmeno condividere l'onta di quella sconfitta, cioè l'hai chiamato a giocare a calcetto all'ultimo minuto, però non ci sta mettendo quella voglia. Io francamente, fossi stato in al di là di quello che è successo in queste giornate, faccio un discorso più di lungo periodo, io fossi stato in Del Bosque me ne sarei andato dopo l'Europeo. Cioè, uno che ha vinto il mondiale, ha vinto l'Europeo, ha tutto da perdere. Io stimo Del Bosque come forse nessun altro allenatore per una serie di motivi, per l'atteggiamento che ha avuto anche in questi giorni, per come gestisce tutta la questione del figlio autistico, eccetera, eccetera. Però, da un punto di vista, come dire, puramente sportivo, anche cinico, se volete, un allenatore che vince un mondiale, un europeo in quel modo, dopo una vittoria precedente ancora dell'europeo, io credo che in un attimo di lucidità doveva dire: beh, insomma, ragazzi, qui non si può fare nient'altro, che bisogna fare? Si cambia, si prende un altro allenatore e forse si riesce a fare qualcos'altro. Questo è evidente, è un discorso utilitaristico. Anche se poi vai a vedere le partite di qualificazione della Spagna al mondiale, sembrava inarrestabile. Credo che abbia perso solo un punto, forse nemmeno quello, abbia vinto quasi tutte le partite. Uh-huh. La Spagna capita sempre in gironi, tra l'altro, di qualificazione abbastanza morbidi di recente. Sì, vero. Però al di là di questo, ti ripeto, io credo che a giorni si rimetterà. Non so quale alternativa ci possa essere, ma non credo che non so che contratto abbia Del Bosque, ma non credo ci sia. No, penso che abbia ancora contratto. Penso sì, che per abbia due ancora anni, contratto. Sì, però anche lui ovviamente si mette in discussione, perché dopo questo devi ripartire da un'altra parte, no? Io lo sai che speravo nell'ottavo di finale Brasile-Spagna, no? Per dare un po' più di pepe a questo mondiale. tutti noi. Però ragazzi, cioè, se la Spagna è questa, al Brasile può far più male il Cile. Non credo. Guarda, Giuseppe, io sono la cosa che dice molto giusta. Del Bosque è un uomo veramente molto intelligente e io credo che lui si sia posto il problema. Già la Confederation Cup allenava una squadra che non era più la stessa e se ne era reso perfettamente conto. Credo che ci sia una sua responsabilità oggettiva in questo disastro, quello di essersi affidato chiavi in mano dal 2008 in poi un gruppo di giocatori che sapeva giocare in un solo modo. E quando quella ragnatela infinita di passaggi è un po' scaduta, lui non ha messo in campo nulla che non fosse un centravanti tradizionale, che con questi altri non si parla, perché è chiaro che parla un altro linguaggio tecnico, che è quello che è successo a Ibrahimovic nel Barcellona, è quello che è sempre successo a Torres in quella Spagna. Mancando poi tutto lo scheletro, rimane solo qualche palla lunga, sporadica palla lunga su Diego Costa. Del Bosque questo lo sa benissimo. Credo che sia stato anche un gesto di grande responsabilità quello di andare a questi mondiali, pur sapendo lui quell'espressione, a me piace molto anche umanamente, Del Bosque è uno anche divertente, credo che fosse abbastanza consapevole di quello che stava per succedere. Sì, ha provato a motivarsi. Anche se ieri a un certo punto è vero, sarà stato il caldo, però l'ho visto molto teso, quasi sudava, era... Sì, è vero, non era molto in sé. Era come frastornato, sudava, parlava, ogni tanto diceva qualche frasetta col suo vice, incomprensibile, era bloccato, quasi, no? Quasi di sasso, di marmo, ma nello stesso tempo sudava. Era un'immagine incredibile quella là, secondo me era l'immagine dell'impotenza a un certo punto della Spagna, che in realtà avesse segnato un gol mentre il Cile ne sbagliava a frotte sul 2-0, qualche chance teorica. Siamo sempre con i secondi, ma sarebbero stati colori stonati per questo quadro, perché questo quadro era destinato sai che un mondiale si vive anche di queste cose, come il caso dell'Italia dell'82, in parte anche dell'Italia del 2006. Guarda, l'Italia del 2006 ha rischiato più volte l'eliminazione, diciamo la verità. Cioè l'Italia in 10 con gli Stati Uniti, l'Australia, partita pessima dell'Italia, me la ricordo ancora, se non sbaglio si giocava Gelsenkirchen, non ricordo più, nello stadio dove giocavamo con gli Stati Uniti, non ricordo più. E fu una partita drammatica quella dell'Italia con l'Australia. Sì, molto difficile. Una partita difficile in cui l'Italia, se l'Australia avesse vinto, non avrebbe certamente rubato. Ma al mondiale una montagna o due montagne devi superare, cioè il momento di buio devi superare, questo è quasi fisiologico. Ragazzi, io vi ringrazio. Una cosa che, insomma, poi sono un sacco di maliziosi che dicono è finito l'effetto Fuentes, perché sai che uno dei refrain è anche questo, uno dei pensieri maliziosi che hanno accompagnato e accompagnano il caso spagnolo è anche questo. C'è un ascoltatore che continua a chiedermi quando sbroccherà il pugliese. Ma chi? Cassano? Cassano. Secondo Pardo non sbroccherà. Secondo te? Ma secondo me dipende anche da se noi ci qualifichiamo domani. Se ci qualifichiamo domani, secondo me lo fa giocare contro l'Uruguay, che potrebbe provocare due effetti: o quello dice mi fai giocare solo quando non conta nulla, esatto, prima cosa che ho pensato, e dunque si arrabbia di più, prima cosa che ho pensato. Oppure invece in qualche modo lo accontenta e magari scopre che si può giocare anche con Cassano. Certo, portare Cassano e non farlo giocare un po' stride, devo dirti la verità, un po' o è un contentino, oppure effettivamente lui pensa di aver trovato una formula ideale, perché dovrebbe cambiarla in nome di Cassano, no? Ma magari il giorno è domani, perché Costa Rica può essere la squadra che ti mette in difficoltà, Michele. Esatto, guarda, io sono un cassanista della prima ora, quindi non faccio testo. Penso che Antonio sia sufficientemente intelligente da sapere che a Manaus avrebbe potuto portare le borracce per la temperatura che c'era in campo, per la fisicità dei giocatori inglesi, cambiando di poco, perché non è che Recife si stia molto meglio, però è lì per giocare, sa che in qualche modo verrà il suo momento. È anche un po' più maturo del momento di altre cassanate, poi vediamo, può succedere qualsiasi cosa. Io credo che giocherà, credo che tra domani con l'Uruguay, tra domani e martedì giocherà. Potrebbe non essere un buon segno se ci fosse bisogno di Cassano, no? Potrebbe essere l'uomo della disperazione, No, io credo che nella testa di Prandelli l'uomo della disperazione, cioè per sbloccare la partita, anzi gli uomini sono due, sono Insigne o Cerci, cioè, o Immobile, eccetera. Non credo che, cioè, secondo me Cassano in questo momento può giocare solo se la partita è abbastanza acquisita. Cioè, secondo me se domani a un certo punto, sempre se facendo mille scongiuri, se domani l'Italia a un certo punto va sul 2-0, va sul 2-0, allora secondo me Cassano lo fa entrare. ripeto, poi Cassano può sbottare da un momento all'altro, però credo che da questo punto di vista un lavoro psicologico sul giocatore Prandelli l'abbia fatto, perché altrimenti sarebbe un pazzo. Cioè, un patto sarà stato stretto. Grazie Michele Lai, Giuseppe. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, tutti i giorni anche. Se vuoi venire tutti i giorni, io ti aspetto. Quando posso. Lo sai, Caravanserrai. Di casa tu casca. Che programma è questo? Scusa, che programma è questo? Fammelo sentire. Gente è pazzesca. Che programma è? Ah, cosa pazzesca. Ciao. A dopo. Che programma è questo? Tutti convocati. En este lugar quedamos atrapados por 70 días. Nos había tragado la tierra. Fue ahí donde tuvimos que comprobar de qué estábamos hechos. Sabíamos que afuera había millones de chilenos que creían en nosotros. Y esta tierra fue testigo de todo eso. Por eso, esta tierra la llevaremos ahora sí a la cancha donde entrenará nuestra selección, para llenarla de esperanza y coraje. Y así demostrarle al mundo que para un chileno nada es imposible. España es difícil, Irlanda es difícil, no los asusta el grupo de la muerte, no nos importa la muerte, porque la muerte la hemos vencido antes. È arrivato Franco Piantanida, ciao. Mamma che garra. Apriamo il libro cuore, dai. Apriamo il libro cuore. No, beh, se i cileni giocano come con la garra di questo spot che hanno fatto i minatori cileni, che nel 2010 rimasero intrappolati per 33 giorni nella miniera di San José, e insomma, di fronte mica male, mica male, insomma, di fronte alla morte niente impossibile, e l'Olanda non ci fa paura, la Spagna non ci fa paura, beh, il Cile è già qualificato. Il messaggio l'hanno recepito i giocatori, mi sa. Vabbè, ma ieri sera hai visto la faccia che avevano quando è stato intonato l'inno nazionale, un'iniezione di adrenalina nel cuore, quella lì, una cosa pazzesca. E questo spot con i minatori cileni, con la sabbia, con la terra di quella miniera nei vasetti. Che dicono porteremo la terra della miniera nel ritiro della nazionale in Brasile. Sono commosso quasi fino alle lacrime. Oh, bello però questo mondiale, Ma nessuno sta dicendo quanto diavolo è bello questo mondiale. Lo dico 8 volte al giorno. Non lo so, allora, quando sono di là non sento. Sì, no, quando sono di là non sento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, a proposito di quanto è bello questo mondiale, o di quanto non è bello, insomma, chiamate per migliore in campo ogni giorno, maglietti tutti convocati. Mandateci sul sito di Radio 24 il vostro commento, file MP3, durata di un minuto, tema della settimana, promossi e bocciati d'Italia e Inghilterra, tanto siamo ancora in tempo, da domani cambieremo il soggetto, e per venire qui a parlare con noi dallo studio e a dire quello che vi pare. Il problema è questo, è un mio idolo. Mauro da Imperia può dire quello che gli pare. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire, a difesa della Spagna, chiunque avesse incontrato Olanda e Cile ora secondo me piangerebbe. Forse solo la Germania avrebbe retto l'urto di queste due squadre. Quindi povero Brasile? Il pubblico forse lo aiuterà tanto, l'arbitro spero di no, però ho visto due squadre molto molto forti. Sì. E poi volevo dire una cosa, il vostro collega Fabio Caressa sta azzeccando tutte le previsioni. È vero, sta Caressa tutto è scatenato, ha azzeccato il gol di Marchisio, ha azzeccato che il portiere della Russia era un pippone e avrebbe fatto una papera, subito. La Spagna che va fuori subito, no, è vero, Caressa Gallo che sarebbe stato stravolto dalla Germania, cioè... Ma perché le ha viste prima, Mauro? È come Mondonico l'altro giorno, le ha viste prima, e poi è così è facile, no? Piuttosto chissà se va a giocare questi pronostici in ricevitoria. Mamma mia, vabbè. No, senti, a proposito di arbitri, posso, allora, passo indietro e mi rifaccio a quanto scritto da Fabio Monti in un suo corsivo Palla Avvelenata oggi sul Corriere della Sera. C'è la questione dello spray, che è un esperimento di una semplicità estrema che sta avendo un grandissimo risultato, secondo me, perché ne parlavamo ieri, se ti ricordi. È quel classico non nulla che ti può cambiare veramente la vita. Cioè, i giocatori stanno lì dietro, non vedi più quelli che si muovono, non ci sono più i comizi ad ogni calcio di punizione. Ebbene, quando nel 20 dicembre 2013, scrive Fabio Monti, quando la FIFA aveva ufficializzato la decisione dello spray, il presidente dell'AIA Marcello Nicchi l'aveva bocciata a tempo di record. Sono quelle cose spettacolari che però non servono a niente. In Italia ne farei volentieri a meno, sarebbe una cosa ridicola. Anche perché da noi le distanze sulle punizioni sono sempre ben calcolate. Ci mancherebbe anche l'arbitro che va in giro con la bomboletta in tasca. Questo aveva detto Nicchi. Mi sa che si è cosparso il capo di cenere, ma forse stamattina lo sentiamo? Sullo spray, che tra l'altro è stata un'innovazione che in Brasile, in Sud America si è visto, sei favorevole o contrario? Ma guarda, io ti dico che si sta rivelando lo spray più positivo di quello che si pensava, perché per il momento allevia i tempi di ripresa del gioco, eccetera, eccetera, ma non credo che sia questo il problema per risolvere i problemi veri del calcio. È un qualche cosa di anche innovativo, spettacolare, ma ancora una volta è un qualche cosa che non va a influire nel gioco e non è una moviola. Non risolve neanche i problemi della fame nel mondo, sicuramente, lo spray o della cura di certe malattie, no, questo no, Nicky, no. Neanche del bullismo a scuola, non credo. Non è una soluzione per questi problemi, però, insomma, diciamo che val bene una... i 3 euro per una bomboletta, non so quanto possa costare sta affare. A me sembra invece una grande idea questa, senza starle a ricorrere a mille sofisticazioni tecnologiche, no? Poi sul fatto che in Italia venga sempre rispettate quelle distanze e che non ci siano problemi nella gestione dei calci di punizione, beh, parliamone tutte le volte che volete. C'è qualche altra curiosità? Dammi qualche altra curiosità. Hai 10 euro che devo andare in ricevitoria a fare una scommessina? Dai, dai, 10 euro. No, sono senza. 10 euro a 7,75 e tu sabato, domani sera hai 70 euro in tasca. Prendo il pizzo. Dai. Cosa? L'Italia, io lo dico, mi espongo, Italia pareggia. Pareggia 1-1. Semplicemente per un motivo dannatamente statistico, perché è dal 2004 che in competizioni ufficiali, la seconda partita, l'Italia fa 1-1. Viva Spagna! Ecco. Poi naturalmente lunedì tornerò qui con le pive nel sacco e tutto il resto. No, però è vero, è dal 2004, seconda partita, l'Italia, Svezia nel 2004, Stati Uniti nel 2006, Romania nel 2008, Nuova Zelanda 2010, Croazia 2012, sempre 1-1 la seconda partita. E quindi ti do 10 euro, 2-0 per l'Italia. 2-0 per l'Italia. Ti do 10 euro, 2-0 per l'Italia. Tommaso da Palermo, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Che trasmissione è? Che programma è? No, dobbiamo chiederlo. Che programma è? No, comunque, volevo dire, io sono d'accordo poco fa quando il suo compagno di viaggio oggi diceva che è legittimo che la Spagna esca da un mondiale dopo quello che ha fatto in questi anni, su questo non ci piove. Quello che mi lascia perplesso e chiedevo a lei la sua opinione è la metamorfosi in negativo di alcuni giocatori, sia della Spagna che del Portogallo, che solo 20 giorni fa hanno giocato la finale di Champions. Cioè, quello che mi lascia sconvolto è il vedere Xavi Alonso, vedere Sergio Ramos, vedere Casillas, ma vedere anche un Pepe, un Coentrao, la lista è lunga. Beh, Cristiano Ronaldo sta male da un po', e non sta benissimo nemmeno ora, tanto che io credo lo vedremo in campo di nuovo al 50% a dire tanto. No, ma la riflessione è giusta, però probabilmente la domanda contiene già una risposta, no? Perché sono arrivati lì e per arrivare lì hanno speso quello che hanno dovuto spendere, ma aggiungiamo ovviamente Diego Costa al lungo elenco che lei ha fatto. La stagione li ha spremuti come limoni, probabilmente non è stata fatta una preparazione adeguata, però alla fine io credo che questa squadra, che la Spagna si sia spenta fisiologicamente, quindi non starei a cercare molte altre ragioni. Sta un po' scritto nelle stelle, nel suo destino, nella normalità delle cose, non solo calcistiche, no? È inutile fare la filosofia spiccia, però questa squadra era finita, si trattava di aspettare che deponesse la corona. Lo ha fatto ieri buttandola per terra, o meglio, il Cile gliel'ha strappata in maniera brusca e brutale, ma era così che era il destino finisse. E la visaglia l'avevamo avuta un anno fa nella finale di Confederation, certo, dove insomma non hanno toccato la boccia nella finale col, sì, Brasile, 3-0 a casa, sonoro, pesante. Ok, è un torneo che insomma ha tutto, poi, ha una rilevanza tutta sua, tutta particolare, tutta amichevole, però le amichevoli sono specchietto per le allodole. Sì, questa squadra è pesante, è nascosta quello dietro, si è nascosta, ha prolungato la sua vita grazie a un girone di qualificazione ai mondiali molto morbido e una serie infinita di amichevoli che non potevano perdere mai. Strade. Ma è vero che Ostia è meglio di Copacabana? Per me Ostia è meglio di Copacabana, è meglio di tante altre cose. Copacabana non ci sono mai stato, non sono riuscito ad andarci neanche l'anno scorso e quest'anno dubito che ci riuscirò. È un avversario ostico da battere dal punto di vista della spiaggia e della vita. Però noi che siamo di Ostia non c'è niente di bello come Ostia. Tutti convocati. Il Costa Rica o la Costa Rica? La Costa Rica, però il Uruguay. La Costa Rica o il Costa Rica, Pacchioni? Dipende come si scrive. Se lo scrivi Costa Rica staccato è la Costa Rica. Perché la Costa Rica? Ugo Trani è il messaggero. Perché è femminile, la Costa. Alla stampa scriverete il Costa Rica o la Costa Rica? La Costa Rica. Perché? Perché suona meglio. Come suona meglio? Vediamo l'ANSA, il punto di vista ufficiale. L'ANSA, quindi l'agenzia che dovrebbe fare, insomma, fa scuola. Il Costa Rica o la Costa Rica? Costa Rica senza articolo. E risolviamo. Si fa 50 e 50, poi si decide dopo. Io direi la Costa Rica, però mi piace di più, un pochino più morbida. Santoni, voi consulterete Wikipedia, Zanichelli? La Finocchiona, eh? Meglio di tutto, meglio di tutto la Finocchiona. Con il pane si va alla grande. La Gazzetta dello Sport ha iniziato una campagna molto chiara, molto precisa. Voi siete per il femminile, la Costa Rica, senza indugio. Vi siete riuniti? Non ci siamo riuniti, però sembra che si mette il femminile quando la Costa Rica si scrive staccato. La Costa Rica. Quando si scrive tutto attaccato si può scrivere anche il Costa Rica. La Costa Rica o la Costa Rica? La Costa Rica. Ma perché? Perché la costa è femminile. Ma che cosa vuol dire? Queste sono due parole, la Costa Rica. Sei sicuro? Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. Ma non è vero. Le grandi inchieste di Pardo, eh. Noi siamo qua per fare della sana cultura. Vabbè, 26 ore alla seconda partita e siamo già tutti, sì, completamente fuori di testa. È dai. Un grasso, chi se ne frega. Cioè, vale tutto. Io sono d'accordo con chi, senza articolo, punto di vista ufficiale dell'ANSA, Costa Rica, c'è bisogno di mettere tutti questi articoli. La nazionale del Costa Rica. Ma c'è bisogno di tutti questi articoli. Quei inutili, vabbè, grandi inchieste di Pardo, però. Le grandi inchieste di Pardo che adesso oggi non lo sentite, neanche Ricci, perché sono on flight, in volo, eh? Sì. Stanno andando verso il cuore dell'Amazzonia e speriamo che ce li riportino indietro. Ci sta tutto, anche il mucchio selvaggio ci sta. Luca, buongiorno. Sì, pronto. Pronto, ciao ragazzi, che programma è questo? Tutti convocati. Bravo. Allora, intanto grazie per la compagnia che ci tenete il pomeriggio, che grazie, insomma, a te. Aspetta, noi che siamo in strada. La Costa Rica o il Costa Rica, Luca? La Costa Rica, credo. La Costa Rica, ok. No. Vabbè, niente, io volevo solo dire da bravo italiano che ho goduto tantissimo per l'eliminazione della Spagna, anche perché per anni non ce l'hanno fatta vedere, sia in Coppa, in Champions League, Europa League, gli spagnoli ci hanno sempre insegnato il calcio, quindi ieri sera io ho goduto che sono usciti e adesso speriamo bene. Non sono pochi quelli che hanno goduto per l'eliminazione della Spagna, leggevo su internet. Io dichiaro senza bisogno di... Vabbè, io ho goduto, Claudio Schiattone alza la mano, ha goduto, a me la Spagna non è mai stata simpaticissima insieme al Barcellona, insieme a questo modo di giocare, e quindi dichiaro il mio godimento, certo, senza nascondermi, ma l'ho detto anche prima con la Michele Dallaio, cioè condividiamo questo comune. Lui poi è molto più dolce di me, molto più sentimentale di me, ha detto però mi hanno fatto un po' di tristezza vedere che proprio questa fine così spudoratamente triste, così spudoratamente evidente. A me no, io anzi sono stato abbastanza contento dei 5 fischi che hanno preso con l'Olanda e ieri sera forza Roca Lema, la Roca cilena. Quell'altro, Luca, vai. Luca? Volevi dire qualcos'altro, Luca? Dimmi. No, niente, vi volevo ringraziare ancora. Salutare Pardo, c'è ancora? Pardo? No, no, oggi non c'è mai stato. È in aereo. Al di là della grande inchiesta che vi avevamo fatto sentire, perché è in aereo. Sta andando con la nazionale in Arrecife. Dove gioca l'Italia? In Amazzonia, Arrecife, per vedere Italia. No, Italia, fuori dall'Amazzonia. Dall'Amazzonia a Arrecife, naturalmente, per vedere la partita di domani dell'Italia contro la Costa Rica. Contro la Costa Rica. Ma sai che sono carichissimi, dimmi, i costaricani, ricensi, richegni, quello che vuoi. Perché c'è, cioè, non lo so, io ho letto delle dichiarazioni, ma assolutamente, assolutamente di guerra. L'allenatore innanzitutto li carica così, dicendo con questa frase: ragazzi, non vi preoccupate, in guerra è normale trovarsi di fronte a difficoltà. L'Italia è la più grande difficoltà della vostra carriera, ma voi non dovete avere nessun tipo di paura. E questo è l'allenatore. Sì. Poi c'è il centrocampista Borges, che ha detto: Pirlo, ma io Pirlo, ma io sono forte come lui, siamo uguali, solo che lui gioca in un campionato più forte del grande, grande. E lui gioca in Svezia, nella IK a Stoccolma. Sì. Sì, sì. E poi c'è Bolaños, che quest'anno ha affrontato la Juventus, gioca nel Copenaghen in Champions League. E lui ha detto: ma che problema c'è? No, ma il palturno lo passiamo noi. No, no, ma non avete capito. Cioè, sono, ma veramente sono assolutamente carichissimi. Ah, giusto, ma è così che si fa. E poi c'è questa un'altra curiosità sul Costa Rica: c'è questo ponte che ha creato non so che procuratore, non so che visionario di pallone del mondo. Per cui ci sono 5 giocatori del Costa Rica che giocano in Scandinavia, sparsi tra Svezia, Danimarca, Norvegia. Io non, sinceramente vorrei conoscere questo genio del male e farlo entrare nella squadra di Mino Raiola, così. Ma del triangolo cosa dici? Il triangolo delle Bermuda o del triangolo di Melissa Satta, Rihanna, Boateng. Sto leggendo. Rihanna. Rihanna ci prova con Boateng. Rihanna. Melissa Satta si ingelosisce. La sexy cantante ha postato su Twitter una foto di Prince con apprezzamenti. Ma la compagna del nazionale ghanese mette le cose in chiaro e si precipita in Brasile. Ci sta tutto, anche il mucchio selvaggio? No, intanto oggi per la cronaca e per ricordare, non so se hai qualche spigolatura anche sulle partite di oggi, perché sono Colombia-Costa d'Avorio, gare estremamente interessanti e tutti abbiamo voglia di rivedere la Colombia all'opera per capire se fino a quanto quanta siamo pasta sbagliati. C'è. Sì, quanto siamo sbagliati, quanta pasta c'è, quanta... Inghilterra-Uruguay, vabbè, ci riguarda da vicino. E io qui ho già detto che secondo me, l'avevo detto prima, sì. Spagna e Uruguay, flop di questi mondiali. L'Uruguay vedo malissimo. Anch'io lo vedo molto male. Sì, le vedo molto. Non lo dico non perché lo dici tu, ma perché le squadre, insomma, l'Uruguay credo che abbia chiuso il ciclo non solo col Super Mondiale 2010, ma anche con la vittoria successiva in Coppa America. È una squadra, insomma, oggettivamente stanca, sì, al pelo. In maniera molto stentata. Giappone-Grecia a mezzanotte, sinceramente, la lascio agli insonni. Veramente. Beh, insomma, una volta su Rete 4 c'erano i filmissimi a mezzanotte, e adesso? Sì, c'erano anche altre cose a mezzanotte una volta, ma vabbè. Comunque, Giappone-Grecia è per i voyeur notturni. E io lo sarò. Allora. Beh, penso vabbè, che dai. Oggi cioè, quote stracciate sul migliore in campo di oggi. Chi prende la maglietta, chissà se riusciamo a trovarlo. È lui, Stefano Milano. Buongiorno. Sì, ciao. Ciao, dimmi. Dovevi intervenire. Che programma è questo? Questo? Il programma che vuoi tu. Questo è il programma che vuoi tu, dimmi. Vabbè. È stupendo. Non che programma è questo? Con che programma volevi parlare? Beh, no, ma richiamatelo questo qua. Non, è? Sì, è Stefano da Milano. Cosa pazzesca, dai. Numero uno. L'hanno richiamato, eh? Sì. La buonissima Claudia Schiattone l'ha richiamato e non ha voluto intervenire, probabilmente perché non sapeva in che programma. Non sapeva che programma è questo. Ha chiesto anche che radio è questa. Ragazzi, Radio 24, programma Tutti Convocati. Ci sentiamo domani pomeriggio dopo il GR delle 2. Grazie a Franco Piantanini, Roberto Scaltritti in regia, Claudio Scaltoni in redazione. Ciao, baci. Che programma è questo?